Allora, io sono, ho 34 anni e ho due balconi, 2x2, su cui ho un piccolo orticello. E l'ho addirittura chiamata ortoterapia, perché non me ne vogliano male psicologi o psichiatri, però per me, proprio da 4 anni a questa parte, ha rappresentato un percorso psicoterapeutico Ah fantastico. sì, lei diciamo si è tranquillizzata coltivando ortaggi. Moltissimo. E io ho origini, diciamo, cittadine 100%, cioè io, mia mamma e i miei nonni, probabilmente i miei nonni avevano le risaie a Mantova e da parte paterna emigravano dal sud, quindi per loro probabilmente. Quindi ci deve essere una trasmissione. Però per loro staccarsi dalla terra, io proprio non ho mai avuto dei nonni da andare a trovare in campagna, perché probabilmente per loro staccarsi dalla terra era E un'elevazione come è iniziato, sociale. Margherita? È l'iniziazione all'orto, quello è il grande passo il giorno che uno decide di piantare un pomodoro invece che un ciclamino. Sì, ma è stato totalmente mio, perché addirittura è avvenuto che io mi sono seccata i semini di un pomodoro che mi piaceva, che ho comprato e mi piaceva. Infatti io consiglio a tutti di partire così, di non comprarsi il semino. Io mangiavo i ciliegini, c'era un lotto che mi piaceva da matti, compro al Quindi supermercato. ha riseminato lo stesso pomodoro. Mi sono seccata, lavate, asciugate, seccate al No, è andata sole. anche bene perché normalmente. No, è 3 anni che sto piantando gli stessi semini, già essiccati, e mi nascono sempre sul mio balcone. Però la cosa in più è che ho convinto mia mamma a prendere un appezzamento di orto sociale, che a Parma ce ne sono tanti. E quindi il passaggio grosso è stato che dall'anno scorso abbiamo un orticello vero e proprio. Questa cosa mi fa piacere, che la sento talmente appagata, felice, su un filo di tripudio carnale nel coltivare l'orto che devo dire che veramente mi ven voglia di cominciare a farlo anche io, se dà questo tipo di soddisfazione. Grazie Margherita.